Pensaci, Giacomino. Dalla undicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Isairon. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Pensaci, Giacomino. Da 3 giorni il professor Agostino Toti non ha in casa quella pace, quel riso a cui crede ormai di aver diritto. Ha circa 70 anni. E dir che sia un bel vecchio non si potrebbe neanche dire. Piccoletto, con la testa grossa, calva, senza collo. Il torso sproporzionato su 2 gambettine da uccello. Sì, sì, il professor Toti lo sa bene e non si fa la minima illusione, perciò che Maddalena, la bella mogliettina, che non ha ancora 26 anni, lo possa amare per se stesso. È vero che egli se l'è presa povera e l'ha innalzata, figliuola del bidello del liceo, è diventata moglie d'un professore ordinario di scienze naturali. Tra pochi mesi con diritto al massimo della pensione. Non solo, ma ricco anche da 2 anni per una fortuna impensata, per una vera manna dal cielo, un'eredità di quasi 200.000 lire, da parte d'un fratello spatriato da tanto tempo in Rumenia e morto celibe colà. Non per tutto questo, però, il professor Toti crede d'aver diritto alla pace e al riso. Egli è filosofo. Sa che tutto questo non può bastare a una moglie giovine e bella. Se l'eredità fosse venuta prima del matrimonio, egli magari avrebbe potuto pretendere da Maddalenina un po' di pazienza, che aspettasse cioè la morte di lui non lontana per rifarsi dal sacrificio d'aver sposato un vecchio. Ma son venute troppo tardi, ahimè, quelle 200.000 lire. 2 anni dopo il matrimonio, quando già il professor Toti filosoficamente aveva riconosciuto che non poteva bastare a compensare il sacrificio della moglie la sola pensioncina che egli le avrebbe un giorno lasciata. Avendo già concesso tutto prima, il professor Toti crede d'aver più che mai ragione di pretendere la pace e il riso ora, con l'aggiunta di quell'eredità vistosa. Tanto più, poi, in quanto egli, uomo saggio veramente e da bene, non si è contentato di beneficiare la moglie, ma ha voluto anche beneficiare, sì, lui, il suo buon Giacomino, già tra i più valenti alunni suoi al liceo. Giovane timido, onesto, garbatissimo, biondo, bello e ricciuto come un angelo. Ma sì, ha fatto tutto, ha pensato a tutto il vecchio professor Agostino Toti. Giacomino Delisi era sfaccendato e l'ozio lo addolorava e lo avviliva. Ebbene, lui, il professor Toti, gli ha trovato posto nella banca agricola, dove ha collocato le 200.000 lire dell'eredità. C'è anche un bambino, ora, per casa. Un angioletto di 2 anni e mezzo, a cui egli si è dedicato tutto, come uno schiavo innamorato. Ogni giorno non gli par l'ora che finiscano le lezioni al liceo per correre a casa, a soddisfare tutti i capricetti del suo piccolo tiranno. Veramente, dopo l'eredità, egli avrebbe potuto mettersi a riposo, rinunziando a quel massimo della pensione, per consacrare tutto il suo tempo al bambino. Ma no, sarebbe stato un peccato, da che c'è, egli vuol portare fino all'ultimo quella sua croce, che gli è stata sempre tanto gravosa. Si è preso moglie proprio per questo, proprio perché recasse un beneficio a qualcuno, ciò che per lui è stato un tormento tutta la vita. Sposando con quest'unico intento di beneficiare una povera giovine, egli ha amato la moglie quasi paternamente soltanto, e più che mai paternamente s'è messo ad amarla da che è nato quel bambino, da cui quasi quasi gli piacerebbe più d'esser chiamato nonno che papà. Questa bugia incosciente sui puri labbruzzi del bambino ignaro gli fa pena. Gli pare che anche il suo amore per lui ne resti offeso. Ma come si fa? Bisogna pure che si prenda con un bacio quell'appellativo dalla boccuccia di Ninì. Quel papà che fa ridere tutti i maligni, i quali non sanno capire la tenerezza sua per quell'innocente, la sua felicità per il bene che ha fatto e che seguita a fare a una donna, a un buon giovinotto, al piccino e anche a sé, sicuro, anche a sé, la felicità di vivere quegli ultimi anni in lieta e dolce compagnia, camminando per la fossa così, con un angioletto per mano. Ridano, ridano pure di lui tutti i maligni. Che risate facili, che risate sciocche. Perché non capiscono? Perché non si mettono al suo posto? Avvertono soltanto il comico, anzi il grottesco della sua situazione, senza saper penetrare nel suo sentimento. Ebbene, che gliene importa? Egli è felice! Se non che, da 3 giorni, che sarà accaduto? La moglie ha gli occhi gonfi e rossi di pianto, accusa un forte mal di capo, non vuole uscire di camera. Gioventù, gioventù, sospira il professor Toti, scrollando il capo con un risolino mesto e arguto negli occhi e sulle labbra. Qualche nuvola, qualche temporaletto. E con Ninì s'aggira per casa, afflitto, inquieto, anche un po' irritato, perché, via, proprio non si merita questo, lui, dalla moglie e da Giacomino. I giovani non contano i giorni, ne hanno tanti ancora innanzi a sé, ma per un povero vecchio è grave perdita un giorno, e sono ormai 3 che la moglie lo lascia così per casa, come una mosca senza capo, e non lo delizia più con quelle ariette e canzoncine cantate con la vocetta limpida e fervida, e non gli prodiga più quelle cure a cui egli è ormai avvezzo. Anche Ninì è serio serio, come se capisca che la mamma non ha testa da badare a lui. Il professore se lo conduce da una stanza all'altra e quasi non ha bisogno di chinarsi per dargli la mano, tant'è piccolino anche lui. Lo porta innanzi al pianoforte, tocca qua e là qualche tasto, sbuffa, sbadiglia, poi siede, fa galoppare un po' Ninì sulle ginocchia, poi torna ad alzarsi, si sente tra le spine. 5 o 6 volte ha tentato di forzare la mogliettina a parlare. Male, eh? Ti senti proprio male? Maddalenina seguita a non volergli dir nulla. Piange. Lo prega di accostare gli scuri del balcone e di portarsi Ninì di là. Vuole star sola e al buio. Il capo, eh? Poverina, le fa tanto male il capo. E la lite deve essere stata grossa davvero. Il professor Toti si reca in cucina e cerca d'abbordare la servetta per avere qualche notizia da lei, ma fa larghi giri, perché sa che la servetta gli è nemica. Sparla di lui, fuori, come tutti gli altri, e lo mette in berlina. Brutta scema, non riesce a saper nulla neanche da lei. E allora il professor Toti prende una risoluzione eroica. Reca Ninì dalla mamma e la prega che glielo vesta per benino. «Perché?» domanda ella. «Lo porto a spassino», risponde lui. «Oggi è festa, qua s'annoia, povero bimbo». La mamma non vorrebbe. Sa che la trista gente ride vedendo il vecchio professore col piccino per mano. Sa che qualche malvagio insolente è arrivato finanche a dirgli: «Ma quanto gli somiglia, professore, il suo figliuolo!» Il professor Toti però insiste: «No, a spassino, a spassino!» E si reca col bimbo in casa di Giacomino Delisi. Questi abita insieme con una sorella nubile che gli ha fatto da madre. Ignorando la ragione del beneficio, la signorina Agata era prima molto grata al professor Toti. Ora, invece, religiosissima com'è, lo tiene in conto d'un diavolo, né più né meno, perché ha indotto il suo Giacomino in peccato mortale. Il professor Toti deve aspettare un bel po', col piccino dietro la porta, dopo aver sonato. La signorina Agata è venuta a guardare dalla spia ed è scappata. Senza dubbio è andata ad avvertire il fratello della visita e ora tornerà a dire che Giacomino non è in casa. Eccola, vestita di nero, cerea, con gli occhiaie livide, stecchita, arcigna. Appena aperta la porta, investe tutta vibrante il professore. «Ma come? Scusi, viene a cercarlo pure in casa adesso? E che vedo, anche col bambino! Ha condotto anche il bambino!» Il professor Toti non s'aspetta una simile accoglienza. Resta intronato. Guarda la signorina Agata, guarda il piccino. Sorride, balbetta. Perché? Che è? Non posso venire a... Non c'è! S'affretta a rispondere quella, asciutta e dura. Giacomino, non c'è! Va bene, dice chinando il capo il professor Toti. Ma lei, signorina, mi scusi, lei mi tratta in un modo che, non so, io non credo di aver fatto né a suo fratello né a lei. Ecco, professore, lo interrompe un po' rabbonita la signorina Agata. Noi, creda pure, le siamo riconoscentissimi, ma anche lei dovrebbe comprendere. Il professor Toti socchiude gli occhi, torna a sorridere. Alza una mano e poi si tocca parecchie volte con la punta delle dita il petto, per significarle che, quanto a comprendere, lasci fare a lui. «Sono vecchio, signorina», dice, «e comprendo tante cose comprendo io, e guardi, prima di tutte questa, che certe furie bisogna lasciarle svaporare e che, quando nascono malintesi, la miglior cosa è chiarire». Chiarire, signorina, chiarire francamente, senza sotterfugi, senza riscaldarsi. Non le pare? Certo, sì, riconosce almeno così in astratto la signorina Agata. E dunque, riprende il professor Toti, mi lasci entrare e mi chiami Giacomino. Ma se non c'è! Vede, no, non mi deve dire che non c'è. Giacomino è in casa e lei me lo deve chiamare. Chiariremo tutto con calma. Glielo dica, con calma. Io sono vecchio e comprendo tutto, perché sono stato anche giovane, signorina. Con calma, glielo dica. Mi lasci entrare. Introdotto nel modesto salotto, il professor Toti siede con Ninì tra le gambe, rassegnato ad aspettare anche qua un bel pezzo. Che la sorella persuada Giacomino. No, qua Ninì, buono, dice di tratto al bimbo, che vorrebbe andare a una mensoletta dove luccicano certi gingilli di porcellana. E intanto si scapa a pensare che diamine può essere accaduto di così grave in casa sua, senza che egli se ne sia accorto per nulla. Maddalenina è così buona, che male può ella aver fatto da provocare un così aspro e forte risentimento qua anche nella sorella di Giacomino. Il professor Toti, che ha creduto finora una bizza passeggera, comincia a impensierirsi e a costernarsi sul serio. Oh, ecco Giacomino finalmente! Dio, che viso alterato, che aria rabbuffata! E come? Ah, questo no. Scansa freddamente il bambino che gli è corso incontro, gridando con le manine tese «Giamì! Giamì!» «Giacomino!» esclama, ferito con severità, il professor Toti. «Che ha da dirmi, professore?» S'affretta a domandargli quello schivando di guardarlo negli occhi. «Io sto male, ero a letto. Non sono in grado di parlare e neanche di sostenere la visita d'alcuno». «Ma il bambino?» «Ecco», dice Giacomino, e si china a baciare Ninì. «Ti senti male?» riprende il professor Toti, un po' racconsolato da quel bacio. «Lo supponevo, e son venuto per questo. Il capo, eh? Siedi, siedi, discorriamo. Qua, Ninì, senti che Giamì ha la bua?» «Sì, caro, la bua!» «Qua, povero Giamì. Sta bonino, ora andiamo via. Volevo domandarti», soggiunge rivolgendosi a Giacomino, «se il direttore della banca agricola ti ha detto qualche cosa». «No, perché?» fa Giacomino turbandosi ancor più. «Perché ieri gli ho parlato di te», risponde con un risolino misterioso il professor Toti. «Il tuo stipendio non è molto grasso, figliuol mio, e sai che una mia parolina...» Giacomino si torce sulla sedia, stringe le pugna fino ad affondarsi le unghie nel palmo delle mani. «Professore, io la ringrazio», dice, «ma mi faccia il favore, la carità, di non incomodarsi più per me. Ecco». «Ah sì?» risponde il professor Toti con quel risolino ancora sulla bocca. «Bravo! Non abbiamo più bisogno di nessuno, eh? Ma se io volessi farlo per mio piacere?» «Caro mio, ma se non devo più curarmi di te, di chi vuoi che mi curi io? Sono vecchio, Giacomino, e ai vecchi, badiamo che non siano egoisti, ai vecchi che hanno tanto stentato, come me, a prendere uno stato, piace di vedere i giovani, come te meritevoli, farsi avanti nella vita per loro mezzo, e godono della loro allegria, delle loro speranze, del posto che essi prendono man mano nella società. Io poi per te, via, tu lo sai, ti considero come un figliuolo». «Che cos'è? Piangi?» Giacomino ha nascosto infatti il volto tra le mani e sussulta come per un impeto di pianto che vorrebbe frenare. Ninì lo guarda sbigottito, poi, rivolgendosi al professore, dice: «Giamì, bua!» Il professore si alza e fa per posare una mano sulla spalla di Giacomino, ma questi balza in piedi, quasi ne provi ribrezzo, mostra il viso scontraffatto come per una fiera risoluzione improvvisa e gli grida esasperatamente: «Non s'accosti! Professore, se ne vada! La scongiuro, se ne vada! Lei mi sta facendo soffrire una pena d'inferno! Io non merito codesto suo affetto e non lo voglio! Non lo voglio! Per carità, se ne vada! Si porti via il bambino e si scordi che io esisto!» Il professor Toti resta sbalordito. Domanda: «Ma perché?» «Glielo dico subito», risponde Giacomino. «Io sono fidanzato, professore! Ha capito? Sono fidanzato!» Il professor Toti vacilla, come per una mazzata sul capo. Alza le mani, balbetta: «Tu, fidanzato?» «Sì, signore», dice Giacomino. «E dunque basta, basta per sempre. Capirà che non posso più vederla qui». «Mi cacci via?» domanda quasi senza voce il professor Toti. «No», s'affretta a rispondergli Giacomino, dolente. «Ma è bene che lei se ne vada, professore». Andarsene. Il professore casca a sedere sulla seggiola. Le gambe gli si sono come stroncate sotto. Si prende la testa tra le mani e geme: «Oh Dio, ah, che rovina! Dunque per questo! Oh povero me! Oh povero me! Ma quando? Come? Senza dirne nulla! Con chi ti sei fidanzato?» «Qua, professore, da un pezzo», dice Giacomino, «con una povera orfana, come me, amica di mia sorella». Il professor Toti lo guarda, inebetito, con gli occhi spenti la bocca aperta e non trova la voce per parlare. E si lascia tutto così e non si pensa più a nulla. Non si tiene più conto di nulla. Giacomino si sente rinfacciare con queste parole l'ingratitudine e si ribella, fosco. Ma scusi, che mi voleva, schiavo? Lei? Io? Schiavo? Prorompe ora con uno schianto nella voce il professor Toti. Io? E lo puoi dire? Io che ti ho fatto padrone della mia casa? Ah, questa sì che vera ingratitudine. E che forse t'ho beneficato per me? Che ne ho avuto io, se non il dileggio di tutti gli sciocchi che non sanno capire il sentimento mio? Dunque non lo capisci. Non lo hai capito neanche tu, il sentimento di questo povero vecchio, che sta per andarsene e che era tranquillo e contento di lasciare tutto a posto, una famigliuola ben avviata, in buone condizioni. Felice. Io ho 70 anni. Io domani me ne vado. Giacomino, che ti sei levato di cervello, figliuolo mio? Io vi lascio tutto qua. Che fai cercando? Non so ancora. Non voglio sapere chi sia la tua fidanzata. Se l'hai scelta tu, sarà magari un'onesta giovine, perché tu sei buono. Ma pensa che non è possibile che tu abbia trovato di meglio. Giacomino, sotto tutti i riguardi, non ti dico soltanto per l'agiatezza assicurata, ma tu hai già la tua famigliuola, in cui non ci sono che io solo di più, ancora per poco, io che non conto per nulla. Che fastidio vi do io? Io sono come il padre, io posso anche, se volete, per la vostra pace. Ma dimmi com'è stato, che è accaduto? Come ti si è voltata la testa? Così, tutto a un tratto. Dimmelo, dimmelo! E il professor Toti si accosta a Giacomino e vuol prendergli un braccio e scuoterglielo. Ma quegli si ristringe tutto in sé, quasi rabbrividendo, e si schermisce. Professore! Grida. Ma come non capisce? Come non si accorge che tutta codesta sua bontà? Ebbene? Mi lasci stare, non mi faccia dire. Come non capisce che certe cose si possono far solo di nascosto e non son più possibili alla luce. Con lei che sa, con tutta la gente che ride. Ah, per la gente? Esclama il professore. E tu? Mi lasci stare, ripete Giacomino al colmo dell'orgasmo, scotendo in aria le braccia. Guardi, ci sono tanti altri giovani che hanno bisogno d'aiuto, professore! Il Toti si sente ferire fin nell'anima da queste parole, che sono un'offesa atroce e ingiusta per sua moglie. Impallidisce, allividisce e tutto tremante dice: Maddalenina è giovine, ma è onesta, per Dio! E tu lo sai, Maddalenina ne può morire, perché è qui. E qui il suo male, nel cuore, dove credi che sia. E qui, ingrato. Ah, la insulti per giunta. E non ti vergogni. E non ne senti rimorso di fronte a me. Puoi dirmi questo in faccia? Tu credi che ella possa passare, così, da uno all'altro, come niente? Madre di questo piccino. Ma che dici? Come puoi parlar così? Giacomino lo guarda trasecolato, allibito. Io, dice, ma lei piuttosto, professore, scusi, lei come può parlare così? Ma dice sul serio? Il professor Toti si stringe ambo le mani sulla bocca, strizza gli occhi, squassa il capo e rompe in un pianto disperato. Ninì anche lui allora si mette a piangere. Il professore lo sente, corre a lui, lo abbraccia. Ah, povero Ninì mio! Ah, che sciagura, Ninì mio! che rovina! E che sarà della tua mamma ora? E che sarà di te, Nini mio, con una mammina come la tua, inesperta, senza guida? Ah, che baratro! Solleva il capo e, guardando tra le lagrime Giacomino, piango, dice, perché mio è il rimorso. Io t'ho protetto, io t'ho accolto in casa, io le ho parlato sempre tanto bene di te. Io le ho tolto ogni scrupolo d'amarti. E ora che ella ti amava sicura, madre di questo piccino, tu... Si interrompe e, fiero, risoluto, convulso, bada, Giacomino, dice, io son capace di presentarmi con questo piccino per mano in casa della tua fidanzata. Giacomino, che suda freddo, pur sulla brace ardente, nel sentirlo parlare e piangere così, a questa minaccia giunge le mani, gli si fa innanzi e scongiura. Professore, professore, ma lei vuol dunque proprio coprirsi di ridicolo? Di ridicolo! Grida il professore. E che vuoi che me ne importi quando vedo la rovina d'una povera donna, la rovina tua, la rovina d'una creatura innocente? Vieni, vieni, andiamo, su via, Ninì, andiamo! Giacomino gli si para davanti. Professore, lei non lo farà. Io lo farò, gli grida con viso fermo il professor Toti. E per impedirti il matrimonio, sono anche capace di farti cacciare dalla banca. Ti do 3 giorni di tempo. E, voltandosi sulla soglia, col piccin per mano, pensaci, Giacomino, pensaci. Fine della novella. Pensaci, Giacomino.